Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci le 7:19, siamo qui cari ascoltatori, noi siamo qui e voi cari debosciati, vi siete svegliati, siete andati, state andando a lavorare, state facendo comodamente colazione, ma bravi, prendetevela con calma che la giornata è lunga, dovete produrre, dovete alzare il PIL, magari dovete cercare un posto di lavoro, dovete andare a scuola, insomma prendetevela con calma, un bel sano e lungo caffè. Ora intanto noi vi ricordo che parleremo di che cosa? Di questa operazione Mare Nostrum che parte oggi. Il contrasto all'immigrazione clandestina, ma anche il contrasto agli scafisti, alla tratta delle persone nel Mediterraneo. Parte questa operazione di cui parleremo anche subito in apertura di rassegna stampa. Ci sono anche i costi che trovate sui giornali e allora ne parleremo alle 8:15 con ospiti. Ora andiamo appunto a scoprirla intanto dai giornali che trovate in edicola. Questo martedì 15 ottobre le aperture sono quasi tutte dedicate al tema del giorno, vale a dire la legge di stabilità che oggi verrà approvata dal Consiglio dei Ministri. Allora ci sono le anticipazioni, nonostante Letta e il governo dicano sono tutte voci privi di fondamento, eccetera, ma in realtà ci sono delle bozze che circolano e tra l'altro la manovra è stata illustrata già da Saccomanni e Letta al capo dello Stato. Il Sole 24 Ore, stretta sul pubblico impiego, questo è il titolo legato alla legge di stabilità. Per il Corriere della Sera, taglia la sanità e nuove tasse. Ecco questa parola, nuove tasse, reggetevi forte, ma c'è un po' ovunque. Repubblica, sanità e regioni, arriva la stangata. La Stampa, arrivano i tagli, scontro nel governo. Il Messaggero, casa e fisco, ecco la manovra. Libero, nuove tasse con sorpresa. Il Giornale, nuova tassa sulla casa. Il Secolo XIX, casa, ecco la nuova tassa. L'Unità, scontro sui tagli alla sanità. Avvenire, scatta l'ora dei tagli, manovra da 12 miliardi. Il Fatto Quotidiano invece apre su effetto Renzi sull'amnistia, voti a rischio in Parlamento, mentre il Manifesto va de retro e c'è una foto di migranti sui barconi e proprio da qui voglio partire. Allora va de retro, così la mette il Manifesto, che poi a pagina 2 continua su questa operazione Mare Nostrum, il titolo: respinti umanamente, droni, elicotteri, navi per soccorrere i migranti, ma il ministro Alfano spiega non è detto che poi verranno portati in Italia. Rischio, scrive il Manifesto, è che comincia una versione più pulita dei respingimenti in mare. Allora, cosa succede con questa operazione Mare Nostrum che anche Avvenire mette a pagina 3, navi e droni per salvare i migranti? Diamo qualche dettaglio tecnico con tanto di quanto costa questa operazione. Lo fa Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, pagina 20, per navi e aerei 4 milioni al mese, 4 milioni di euro al mese, questo è il costo. Per schierare nel Mediterraneo 4 motovedette della Capitaneria, 2 navi della Guardia di Finanza, una nave la Tremiti, un pattugliatore il Libra, un pattugliatore il Vega, un altro pattugliatore la Cassiopea, la corvetta Driade, le 2 fregate e 3 navi tra cui la San Marco. E poi droni, insomma questo vuol dire anche militari. Mare Nostrum userà anche elicotteri, ci sarà la San Marco, missione militare umanitaria ma con un obiettivo preciso, scrive il Corriere, stanare gli scafisti, e dunque il dispositivo che sarà operativo dal 18 ottobre costerà almeno 4 milioni di euro e prevede l'impiego anche della nave San Marco come base, 4 milioni di euro al mese. Si chiama Mare Nostrum, questo è il nome che viene dato anche per il Messaggero Immigrazione via l'operazione Mare Nostrum con droni e 5 navi. I costi lievitano, nel senso che sono calcolati al mese da il Corriere, il Giornale invece sbatte questa cifra, pagina 4, parte l'operazione antisbarchi, l'emergenza in totale costa 210 milioni, al via da oggi la task force Mare Nostrum, il governo dice non serve una nuova copertura, ma ricorda il giornale con Emanuela Fontana, pagina 4, c'è la polemica perché sono stati dirottati per esempio dei fondi che erano destinati al contrasto alla mafia, o meglio al supporto dei familiari vittime alla mafia, sono stati dirottati per le emergenze immigrati. La cosa che però mi ha fatto più imbestialire di questa vicenda, l'ho letta sul Corriere della Sera, l'articolo di Virginia Piccolillo a pagina 20, ecco, quando uno legge queste notizie davvero ti sale dentro un sentimento molto prossimo alla rabbia. Le motovedette donate ai libici sono ferme in una base a Gaeta. Ma come? Ebbene sì, vi ricordate? Abbiamo donato in passato alla Libia, la Libia di Gheddafi, degli strumenti per contrastare l'immigrazione clandestina, ferri vecchi. Erano ridotte così le motovedette che avevamo consegnato in pompa magna a Muammar Gheddafi per onorare il trattato bilaterale che avrebbe dovuto evitare gli imbarchi dei disperati. Quelle imbarcazioni veloci e super attrezzate erano solo una parte delle numerose concessioni fatte dall'Italia a Tripoli. Non senza spiacevoli conseguenze, prima tra tutte quella subita da un'imbarcazione di pescatori siciliani, ricordate, che venne mitragliata nel golfo della Sirte da una motovedetta con finanzieri italiani a bordo. Chi ha pensato che fossero all'opera in questi giorni di emergenza per combattere il traffico di esseri umani quelle motovedette sbaglia, non ce n'è più neanche una. Né le tre consegnate a maggio del 2009, né le altre tre cedute nel febbraio 2010 all'ex ambasciatore libico Gaddur in una cerimonia presenziata dall'ex ministro dell'interno Maroni, dall'allora capo della polizia Manganelli, dall'ex comandante della Guardia di Finanza Cosimo D'Arrigo. E dove sono allora queste motovedette? Sono qui, in Italia, dove saranno riparate. E a spese chi? A spese nostre. Per la precisione, due sono già arrivate, sono state riaccolte nella base navale della Guardia di Finanza a Gaeta, che le aveva salutate il giorno dell'addio verso Zuwara. Due stanno per arrivare, destinate al cantiere in provincia di Napoli, Bacoli Miseno. Erano grippate, danneggiate, saccheggiate, tenute nell'incuria. E qual è il danno oltre la beffa? Troppo difficili le riparazioni per poterle fare a Tripoli. E così ci dobbiamo pure pagare le riparazioni. Allora uno quando legge questi articoli dice: ma che serve tutto lo sforzo che stiamo facendo? Ricordate, ieri il neo premier libico, l'ho detto qui a questi giornali, a questi microfoni, chiede più impegno, tradotto chiede soldi, chiede materiale, chiede strumenti, e gli strumenti dati qualche anno fa, eccoci qui. Sono tutti rotti e ce li hanno restituiti e li dobbiamo pagare noi e sistemare noi, perché loro non sono in grado. Questo è il dato di fatto. Allora, ne parleremo alle 8:15. Prima della pubblicità vi voglio aggiornare su una vicenda di cui abbiamo parlato ieri, di cui hanno parlato i giornali, oggi ci tornano in maniera molto molto ampia, vale a dire il compenso, e sono le polemiche che sono suscitate dopo l'intervista di Fabio Fazio a Renato Brunetta, il compenso del conduttore di Che Tempo Che Fa. Perché sapete che Brunetta gli ha sbattuto in faccia questi 5 milioni rotti in 3 anni, 5 milioni e 400 mila euro per 3 anni, Sanremo compreso. Fabio Fazio si è trincerato dietro la privacy dicendo: c'è una clausola che mi impedisce di rivelare quanto prendo dalla RAI. Insomma, il dato di fatto: RAI bufera sui mega compensi. Questo è il titolo del Messaggero, che aggiunge: salta Crozza. Ecco, questa è la notizia in più che oggi c'è sui giornali. Dopo che Brunetta ieri ha insistito anche via Twitter: è vero che Fabio Fazio guadagnerà 5,4 milioni in 3 anni per 3 ore e mezzo di trasmissione alla settimana per 8 mesi l'anno? Questa è la domanda che ha posto Renato Brunetta. Per la verità pare ci sia anche Sanremo in questo compenso. Sta di fatto che tutti vanno a fare le pulci. Quanto guadagna Fabio Fazio? Che soldi che fa? Titola così Libero. Diamo a Fazio 1,8 milioni l'anno. Libero da questa cifra. 1.800.000 euro è ciò che diamo dalla RAI a Fabio Fazio per Che Tempo Che Fa. E la novità è che tutto questo clamore, questo stupore, ha fatto saltare il contratto e il passaggio, che sarebbe stato anche questo un passaggio, almeno stando alle indiscrezioni dei giornali, milionario, addirittura per 5 milioni di euro in 2 anni a Crozza, appunto dello show di Crozza alla Rai. La Rai si sveglia, mette per esempio Libero, no al contrattone, Crozza resta alla 7. Un Crozza che, secondo indiscrezioni, viene dato per furioso. Anche Repubblica mette mezza pagina con Leandro Palestini. Rai salta l'arrivo di Crozza e Gubitosi, che è il direttore generale della Rai, cede all'assalto del PDL. Scrive Repubblica: Maurizio Crozza fa dietro front, niente risate su Rai 1, salta l'attesissimo show del 2014. La Rai accredita la versione della separazione consensuale, ma fonti vicine alla direzione tendono a ridimensionare l'incidente. La RAI e l'agenzia di Crozza, libere comunque di decidere in qualunque senso, dopo alcuni incontri hanno consensualmente convenuto di non dover procedere oltre. C'è insomma però in realtà, scrive Repubblica, chi pensa che la campagna orchestrata da Brunetta e dai giornali vicino al PDL, Libero e Il Giornale, non sia casuale ma tesa a colpire l'azienda. Sui costi dello show di Crozza erano circolate cifre da capogiro: 20-25 milioni di euro spalmati su 3 anni per una 50 di puntate, quasi 5 milioni di ingaggio per il comico genovese che avrebbe così lasciato la 7. Vabbè, le polemiche ci sono ovunque, anche il Fatto Quotidiano dedica una pagina a questo tema. Il titolo è Rai, Fazio e appalti soldi pubblici ma stipendi segreti. Dunque, soldi pubblici, stipendi segreti, Carlo Tecce. Dopo lo scontro con Brunetta sul compenso, Gubitosi blinda i dati, ma la legge impone trasparenza e dunque c'è un ricorso del Codacons. Risultato: salta il super contratto di Crozza. E questa è la vicenda. Se guadagnate 1.800.000 euro al mese, oppure no, gustatevi ancora il caffè e ritorniamo tra 3 minuti. 24 mattino. E siamo qui alle 7:35 minuti. Allora, la legge di stabilità è ciò che più prende spazio sui giornali, perché c'è grande attesa. Oggi alle 5 mi risulta il Consiglio dei Ministri si riuniranno e dovranno entro oggi fare questa legge di stabilità. Entro oggi, perché come racconta il Corriere della Sera con Marco Galluzzo a pagina 5, entro mezzanotte di oggi dovrà arrivare una mail a Bruxelles, all'Unione Europea, per spiegare la legge di stabilità. E scrive infatti Galluzzo: oggi, quando alle 5 i ministri si riuniranno, il conto alla rovescia sarà quasi alla fine. Entro mezzanotte da Palazzo Chigi dovrà partire una mail diretta alla Commissione Europea contenente la legge di stabilità già approvata dal governo come da previsione del nuovo trattato Two-Pack. Nel merito e nei numeri sono però ancora troppi i capitoli aperti perché la manovra trasmessa alle autorità comunitarie possa dirsi chiusa e blindata. E dunque, quando il funzionario di turno farà click domani sera, il testo che arriverà nel palazzo della Commissione a Bruxelles sarà stato concepito in base a un doppio step: quello che oggi approverà l'esecutivo e quello che sarà deliberatamente lasciato al vaglio di un accordo parlamentare successivo. Insomma, come dire, alcuni capitoli resteranno aperti. La sensazione, questa raccontata sia dal Corriere sia dal Messaggero, è questa frase di Enrico Letta, il Premier. La sensazione e lo sentimento in questo momento del Presidente del Consiglio è questo: mi gioco tutto sulla legge di stabilità, mi gioco tutto. E a proposito di legge di stabilità, come detto, ieri ancora il governo ha fatto sapere che tutto quello che si legge sono anticipazioni che lasciano il tempo che trovano. Il punto essenziale è che in realtà tutte queste anticipazioni sono sui giornali, è chiaro. Sono, ribadisco, possibili elementi che entreranno nella legge di stabilità con cifre che dovranno essere stabilite oggi, però tante cose già ci sono e si profilano all'orizzonte. Per esempio, tutti titolano: arriva la nuova tassa, come la chiamano, la Trise. Insomma, non avevamo più la IMU, l'IMU, adesso avremo la Trise, la Tari, la Tasi. Mi è venuto già il mal di testa a leggere il titolo del Fatto. Era meglio l'IMU, arrivano la Trise, la Tari, la Tasi. Sembrano qui, qua, qua. Eppure sono qualcosa di un po' più doloroso. Secondo il Sole 24 Ore, pagina 3, con Marco Mobile e Marco Rogari, c'è allo studio, ci sono tagli alle detrazioni dell'IRPEF. La legge di stabilità dovrebbe valere in totale tra gli 11 e i 12 miliardi. Per quel che riguarda il taglio al cuneo fiscale, si stabilisce sui 2,5 miliardi per lavoratori e imprese con l'obiettivo di aumentare la dote fino al massimo a 3 miliardi. La nuova service tax sarà denominata appunto TRISE e sarà a carico di proprietari di immobili e inquilini, anche con la possibilità per i comuni di maggiorarla rispetto all'IMU sull'abitazione principale dell'1 per 1000. Eccolo lì. Ma si stava meglio quando si stava peggio. Avete capito? Se viene confermato oggi in legge di stabilità, i comuni potranno maggiorare rispetto alla vecchia IMU fino all'1 per 1000 in più. Poi c'è un piano di tagli su pubblico impiego con anche un contributo di 5-10 euro sui concorsi pubblici. La sanità, un mini pacchetto previdenza con la sterilizzazione degli assegni oltre 3.000 euro, l'ipotesi di ripristinare un contributo sulle pensioni oltre i 100.000 euro a vantaggio di tutto il sistema previdenziale, il tutto accompagnato dall'aumento della mini patrimoniale targata Monti sul deposito titoli. Ecco, anche qui, sempre a pagina 3, aumenteranno le tassazioni sulle rendite finanziarie dal 2014 di quanto, boh, al momento non si sa, bisogna attendere la legge di stabilità, ma certamente c'è un incremento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari. Fino all'ultimo momento però potrebbe spuntare anche un sensibile variegato ritocco delle aliquote di tassazione sui redditi di natura finanziaria. Queste sono, ripeto, tutte le anticipazioni, ce ne sono tante, sul cuneo appunto i dettagli ulteriori con Marco Mobili a pagina 5, nella bozza ci sono invece solo 900 milioni per l'IRAP, 1,6 miliardi di detrazioni dell'IRP. Ripeto, è una bozza tra l'altro che è stata illustrata ieri da Saccomanni e letta al capo dello Stato Giorgio Napolitano. Insomma, Trise, Tari, Tasi, questi acronimi che significano nuove tasse. Voglio subito chiedere a Mauro Meazza, che saluto, Mauro del Sole 24 Ore. Mauro, buongiorno. Allora, buongiorno Alessandro. Si stava meglio quando si stava peggio, lo dovremo scoprire oggi, ma forse con l'IMU era meglio di questo Tare, Tasi, Tarsi, Trise. Dare nomi alle tasse non è semplicissimo. No, non è neanche simpatico. Trise non è proprio il nome più intrigante che si potesse trovare. Trise, sì. Trise, perché dovrebbe unire due tasse, non so se hai avuto modo già di spiegarlo. Sarebbe unire tre tasse, Trise, però insomma una è Trise, si potrebbe dire. No, ci sono, come dicevi, molte anticipazioni, molte cose che vedremo poi come vanno a finire, nel senso che ad esempio una limatura della detrazione del 19%, lo sconto fiscale che ti fanno sui medicinali, su tante altre voci, potrebbe scendere al 18%, oppure invece potrebbe restare uguale perché aumenta l'imposta sulle rendite finanziarie, quindi passando 21-22%, chi lo sa con quale sarà la percentuale magicamente giusta. Non sono, diciamo, buone notizie quelle che si preparano, mi sembra di capire che comunque ne usciremo con un riordino delle tasse, speriamo che poi il gettito complessivo nelle nostre tasche non... Esatto, perché quando si dice riordino fa un po', mette già un po' di inquietudine, vengono già i brividi, riordino ma non vuol... Dovrebbe stare a significare, come sai, che qualcuno pagherà un po' di più, qualcuno un po' di meno, il problema è che si ha sempre l'impressione di finire nel gruppo di quelli che pagano di più. Tu ti giri a fianco e dici, ma tu paghi meno, no io pago di più, anche io pago di più, è sempre così. Va bene, no, ma adesso a parte gli scherzi vedremo oggi ovviamente come va questa legge di stabilità. Certamente lo seguiremo passo passo nel pomeriggio, naturalmente già dal sito, poi a Radio 24, insomma vi racconteremo tutto. Vi voglio segnalare una cosa importante per le banche, purtroppo non è una buona notizia, ma nella nostra prima pagina della sezione imprese e territori abbiamo delle anticipazioni, sapete che c'è un contratto da rinnovare per i bancari, sì. Si parla di 20.000 esuberi entro il 2020, quindi Non è una buona notizia neppure questa, insomma. C'è un dettaglio, un lavoro molto accurato che ha fatto Cristina Casadei, già in 20 anni ci sono state quasi 70.000 uscite volontarie, e però bisognerà, come dire, pare che il settore dovrà tagliare ancora, non è una gran notizia. Non è una gran notizia. A proposito di tagli, io nel frattempo, Mauro, ti ringrazio e vedremo domani, a questo punto vedremo questa legge di stabilità, qualcosa di più e di più concreto, di certo lo sapremo, e non solo anticipazioni. A proposito di tagli, uno dei temi che viene affrontato è quello dei tagli alla sanità. Ci sono giornali che titolano in prima pagina su questo, come l'Unità titola proprio e anche il Giorno, tasse e tagli alla sanità. Interessante però su questo l'editoriale che Sergio Rizzo scrive in prima pagina sul Corriere della Sera, e ve lo voglio leggere. Il titolo è: Regioni e sprechi insostenibili, dimagrire senza proteste. Scrive Rizzo: alla sua prima legge di stabilità il ministro dell'economia Saccomanni ha imparato quanto sia complicato nel nostro paese usare le forbici, ma al tempo stesso come si possa girare il problema inventando nuove tasse nazionali e locali. E allora l'ipotesi di tagliare anche alla sanità ha suscitato la protesta di molte regioni, ma scrive Rizzo con altrettanta chiarezza: va detto che se c'è una cosa davvero non più sostenibile per chi paga le tasse è il livello raggiunto dalla spesa pubblica in rapporto alla qualità spesso scadentissima dei servizi stessi, e molte regioni da questo punto di vista sono un autentico buco nero. Dal 2000 al 2010 la spesa pubblica regionale ha superato di slancio i 200 miliardi di euro, crescita di 89 miliardi, che corrisponde a un incremento del 75% monetario e del 45,4% oltre l'inflazione. E all'esplosione delle spese periferiche ha corrisposto un ulteriore aumento di quelle centrali. Mentre le uscite regionali aumentavano del 45,4%, la parte restante della spesa pubblica segnava una crescita reale del 17,7%, con una progressione sconosciuta in Europa. Ovvio che per alimentare una macchina impazzita, capace di ingoiare nel 2010 ben 245 miliardi in più rispetto a 10 anni prima, la pressione fiscale si è andata letteralmente in orbita. Dunque, scrive Rizzo, ci si lamenta, magari anche con una lamentela giusta, dei tagli alla sanità, ma la spesa delle regioni in questi ultimi 10 anni è aumentata a dismisura, a fronte anche di servizi in alcune regioni, chi più chi meno, davvero scadentissimi. Quindi risultato: il federalismo alla matriciana o all'italiana, spese locali aumentate e quindi tasse, e in più Stato centrale e tasse aumentate da una parte e dall'altra. Come scrive Iena nel suo graffio sulla Stampa, pagina 3, non è un paese per ammalati il traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Eccoci qua, mentre chiaramente io mi sono dimenticato di dirlo, ma Francesca mi scrive: ma i due eurini con i quali giro in tasca sono sempre a disposizione, se lo Stato vuole, se il governo vuole, visto che 11-12 miliardi di legge di stabilità sono qui a disposizione, di più come al solito non sono in grado di dare. Intanto la politica insomma dibatte soprattutto sulla questione amnistia e indulto, cioè, tra l'altro guardate l'impazzimento della politica. Questo dibattito amnistia e indulto è partito su una situazione emergenza carceraria, il messaggio del capo dello Stato alle Camere, subito si è parlato di amnistia e indulto, così non esiste neanche un testo, sono provvedimenti che deve prendere il Parlamento, deve approvare il Parlamento, non esiste neppure un testo sul quale si sta ragionando, eppure già si litiga. Deve valere anche per Berlusconi, non deve valere per Berlusconi, deve valere per l'uno e non per l'altro. Eccolo qua: amnistia, una crepa nel governo, duello Quagliariello cancellieri, questo per esempio è il titolo a pagina 8 del Corriere della Sera, ma anche l'amnistia anche per Berlusconi, così Quagliariello, ma la cancellieri gela subito il PDL, mai usata per reati finanziari, mentre si rifà vivo Pippo Civati che sui giornali è sempre presente, Tommaso Ciria con l'intervista per Repubblica e dice: Renzi gioca una partita vergognosa, non si fa un congresso sui detenuti. Ed eccolo qui anche per il Corriere della Sera, pagina 10 e 11, dalla giustizia ai ministri, Renzi: c'è chi non fa le cose che dovrebbe, va all'attacco, la legalità non è una bandierina. Dunque tutto il dibattito, resa dei conti del PD, accuse e veleni, l'articolo sempre del Corriere, pagina 11, Maria Teresa Meli, al rottamatore, cioè a Renzi, viene contestato di essersi mosso in base ai sondaggi sul tema amnistia e indulto e guardando all'elettorato 5 Stelle tra i capi di imputazione. Cos'è? Scrive Maria Teresa Meri: tra i capi di imputazione che pesano sul collo di Renzi, quello di aver lisciato il pelo al Movimento 5 Stelle col suo no all'amnistia, anzi peggio, quello di essersi mosso in base ai sondaggi che davano per sgraditissima una proposta del genere tra i grillini. Ecco perché l'ultra bersaniano Flavio Zanonato si è scagliato subito contro il primo cittadino del capoluogo toscano, accusandolo di intelligenza con il nemico. E dall'altra parte Berlusconi è alle prese con il PDL, con, tra l'altro anche con una, alle prese con una questione economica. Ecco, le notizie più interessanti sul PDL le mettono Libero e l'Unità, il tema è lo stesso. Libero e l'Unità scrivono: il PDL ha i conti in difficoltà. Perché? Perché ci sono moltissimi del Popolo della Libertà che non pagano la quota che devono pagare al proprio partito. Ed eccolo allora lì, Franco Bechis, vice direttore di Libero: nei conti del PDL c'è un buco di 6.247.284 euro dovuto all'avarizia degli eletti al Parlamento nazionale, europeo, consiglieri regionali, che non versano da anni la quota al partito. Dovrebbe essere di 9.600 euro per i parlamentari nazionali, 6.000 per gli europarlamentari e i consiglieri regionali, ma in tantissimi si prendono ben guardia dal farlo. Ha un bel dire il povero segretario amministrativo del partito, l'onorevole Bianconi, che sembra sempre più impellente al recupero possibile degli arretrati dei versamenti mensili. Fatto sta che gli eletti infedeli alla decima sono ogni anno di più. E Libero pubblica a questo punto: ecco chi paga. Pagina 2, l'elenco, da Mario Abruzzese, che paga 6.000 euro, Giancarlo Abelli 9.600, Ignazio Abrignani 9.600, c'è chi è arrivato a pagare fino a 32.000 euro, Paolo Bonaiuti, il portavoce di Berlusconi, oppure Fabio Rampelli 24.000 euro. Insomma, ci sono tutti quelli che pagano, e quelli che non pagano evidentemente non sono in questo elenco. Anche l'Unità si concentra su questo tema: crack PDL, alte spese e onorevoli morosi. Forza Italia 88 milioni di debiti, il PDL 33. Il cavaliere, tra l'altro, Silvio Berlusconi, garantisce fideiussioni per 102 milioni, racconta Claudia Fusani, ma il problema è che sono i parlamentari avari e non fedeli al partito. Solo il 6% di loro, pensate, sono in regola con i contributi al partito, gli altri non pagano, e Libero ha deciso di mettere i nomi. Vabbè, c'è anche tutta la vicenda ancora di Prib, che non è ancora finita. Secondo il Messaggero è già stata benedetta la salma di Priv, che mentre Libero racconta: abbiamo visto in anteprima uno spezzone del videotestamento, un'intervista di un'ora e mezza che l'avvocato Paolo Giachini ha fatto a Priv, e ci sono le solite bestialità. C'era un bordello per quelli che si comportavano bene a Mauthausen. A Dachau non ho visto camere a gas, e quando ho chiesto a Hitler in persona esiste la soluzione finale sugli ebrei, la risposta di Priebke è no. Vabbè, spazzatura, e andiamo oltre. E andiamo alla chiusura della rassegna stampa con la notizia della carta costa, la notizia più inutile sui giornali. Oggi, ragazzi, vince il giornale quando l'ho letta. Daniela Uva, pagina 22, c'è un dramma. C'è un dramma in corso, un problema veramente serio, mondiale. Anche i ricchi piangono, e così decolla il fly sharing. Il fly sharing. I ricchi non ce la fanno più, non ce la fanno più, poveracci, e devono condividere i voli in jet privato. È un vero dramma. Sostenere i costi degli aerei privati sta diventando proibitivo, scrive il giornale. Meglio quindi ricorrere alla condivisione delle spese. Sappiate che il noleggio di un'ora di un jet privato va da 1.800 a 16.000 euro, ma se si sceglie il jet sharing si risparmia fino al 70%, cari italiani. Un'intera pagina del giornale per raccontarlo, ma pufferbacco e per dindirindina. Gli italiani non arrivano alla quarta settimana, forse anche alla terza. Il problema del giornale è raccontare il jet sharing, come si condividono le spese dei voli privati. Quanto costa la carta? Andiamo al giornale radio.